Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan. Raccontiamo attraverso i fatti di cronaca il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo ovviamente dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Siamo al fianco dei viventi non umani e pensiamo sia urgente chiederci che rapporto intendiamo avere con il resto dei viventi, non necessariamente deboli, ma dominati e coerciti. Sarà questo e solo questo a definirci umani o disumani. Nella puntata di oggi, che è la numero 752, parleremo della dura vita dei selvatici nel nostro paese, con particolare attenzione a linci e foche monache. Segnaliamo poi la pericolosa deriva governativa che intende stravolgere ogni residua tutela della fauna selvatica mettendola a disposizione delle associazioni venatorie. E siccome il 22 giugno è stata la giornata mondiale dedicata alle foreste pluviali, parleremo della loro importanza, delle minacce che incombono su di loro e di alcune azioni alla portata di tutti per salvaguardarle. Infine, i Troglodita Tribe ci offriranno il loro appello antispecista agli artisti. Non mancherà la consueta ricetta vegana cruelty free che riprenderà uno dei temi di questa puntata. La rubrica di cucina è curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni. Gianluca Masala ha curato il montaggio musicale di oggi. Speriamo di avervi incuriosito. Facile vivere in Italia per gli animali selvatici. I loro habitat sono ristretti, spesso compromessi, è diffusa una forte ostilità tra allevatori e agricoltori, è pressante anche la minaccia dei cacciatori ed è evidente l'avversione di varie fazioni politiche con gravi ricadute nelle scelte degli enti locali. Date queste premesse diventa una notizia ancora più importante l'avvistamento nella zona di Tarvisio di due cuccioli di lince nati da poco da Thalia. Mamma lince inclusa nel progetto Urgent Lynx Conservation Actions che punta al ripopolamento delle Alpi con questo magnifico felino. Thalia è una lince che era stata immessa nel quadro del progetto e che si è stabilita nelle Alpi Giulie slovene. Come riferisce il WWF in una nota, grazie al radiocollare d'Italia è stato possibile localizzare la sua tana e accertare la presenza dei due cuccioli. Ora si cercherà di prelevare dei campioni genetici in modo da individuare il padre della cucciolata. Stiamo parlando evidentemente di un progetto di emergenza, di un rimedio, se così si può dire, all'estinzione della lince in Italia che è stata causata in passato dalla caccia sistematica. Il progetto è partito l'anno scorso con il trasferimento sulle Alpi Giulie italiane di 5 individui, 3 femmine e 2 maschi. Il progetto di ripopolamento è tanto ambizioso quanto complicato. Per avere successo servirebbe un numero di individui piuttosto ampio, anche per evitare che si arrivi a un impoverimento genetico. Giocano però a sfavore l'esigua dimensione attuale delle popolazioni di linci, la frammentazione ormai tipica delle Alpi causata dall'eccesso di infrastrutture e dalla vile pratica delle uccisioni illegali, come dimostra il triste caso di Sofia, un'altra delle femmine di lince rilasciate lo scorso anno, uccisa da un cacciatore in Austria. Il WWF comunque ha accolto la nascita delle due linci come un segnale incoraggiante verso la ricostituzione della popolazione di lince sulle Alpi orientali anche nei prossimi 3 anni, dal 25 al 27 del 2000. Questa notizia, sostiene l'associazione, aumenta la speranza di rivedere la lince occupare un ruolo primario negli equilibri ambientali degli ecosistemi montani delle nostre Alpi. Dalle Alpi andiamo al Mediterraneo, dove un altro animale selvatico a forte rischio di estinzione è la foca monaca, uno dei mammiferi più rari e vulnerabili del Mediterraneo. Si tratta dell'unica specie di pinnipede da sempre presente nel Mare Nostrum, con una popolazione attualmente stimata di circa 1 migliaio di individui. Il suo declino si era accentuato soprattutto nel secolo scorso, nemmeno a dirlo, per cause umane, gli effetti della pesca intensiva, con la cattura accidentale in attrezzi da pesca, come avviene per le tartarughe marine, e l'uccisione diretta illegale. Questo spiega la scomparsa della foca monaca da molte aree in cui la presenza era storicamente ben nota fino al secolo scorso. Nei giorni scorsi c'è stato un D-Day per la foca monaca. Un centinaio di volontari sparsi in tutte le regioni costiere sono stati impegnati in una giornata di monitoraggio nazionale per lo studio della presenza della foca monaca. Uno degli aspetti più innovativi del progetto è la raccolta di campioni di acqua marina per l'analisi del DNA ambientale. Questo metodo, assolutamente non invasivo, sviluppato dalla professoressa Valsecchi dell'Università di Milano Bicocca per la campagna Spot the Monk, ha già permesso negli ultimi 3 anni di rilevare la presenza della foca monaca in numerose aree del Mediterraneo centrale, dove la specie non era stata ancora segnalata, tra cui isole Baleari, canale di Caprera, a nord-est della Sardegna, l'arcipelago toscano e il canale di Sicilia nelle isole Pelagie. Questi dati dimostrano che la specie è in grado di spostarsi su grandi distanze. Secondo il WWF, l'ampia partecipazione delle comunità locali al progetto e ai piani di monitoraggio rappresenta una speranza concreta per il futuro della foca monaca nel Mediterraneo. Nonostante ricoprano meno del 3% del pianeta, le foreste pluviali ospitano più della metà delle specie terrestri di piante e animali. Contribuiscono a contrastare il cambiamento climatico, regolano l'approvvigionamento idrico, migliorano la qualità di aria e acqua. Oltre 1 miliardo di persone vive all'interno e intorno alle foreste e dipende da esse per ottenere cibo, medicinali e altre materie prime. Tutti noi, comunque, godiamo di benefici inestimabili prodotti dalle foreste, ma a causa del nostro impatto ogni anno ne vengono distrutte circa 10 milioni di ettari. Fermare la deforestazione a livello globale, conservare le foreste ancora intatte, ripristinare quelle degradate, dunque non è mai stato così urgente. È questo l'allarme che il WWF lancia in occasione della Giornata Mondiale delle Foreste Pluviali, il World Rainforest Day, il 22 giugno, puntando particolare attenzione su quelli che sono i paesi del bacino del Congo, dell'Amazzonia e del sud-est asiatico, che da soli comprendono l'80% delle foreste tropicali del mondo e 2/3, pensate, della biodiversità terrestre. Le terre e le acque di queste aree forniscono servizi ecosistemici cruciali e svolgono un ruolo chiave nella regolazione del clima. Sono dunque tra i tesori naturali più preziosi e allo stesso tempo più minacciati della Terra. Ma vediamo tutto ciò che c'è da sapere su questa giornata così importante che è stata il 22 giugno. Purtroppo stiamo perdendo le foreste a un ritmo allarmante. Un'area di foresta grande quanto 7 campi da calcio scompare ogni 15 secondi a causa della crescente domanda di legnami pregiati e della conversione delle foreste in pascoli o piantagioni di soia e palma da olio. La prima giornata mondiale delle foreste pluviali è stata nel 2017. Come sforzo collaborativo per sensibilizzare e promuovere azioni volte a proteggere le foreste pluviali di tutto il mondo. Rainforest Partnership, che è l'associazione che si impegna nella protezione e rigenerazione delle foreste pluviali tropicali attraverso progetti comunitari nell'Amazzonia, è stata il soggetto proponente di questa giornata mondiale. Questi ecosistemi complessi e ricchi sono cruciali per molte ragioni. Per la biodiversità, perché ospitano milioni di specie di piante, animali, insetti, molte delle quali non si trovano altrove. Per la regolazione del clima, perché agiscono come serbatoio di carbonio, assorbendo grandi quantità di anidride carbonica e contribuendo a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Per le risorse idriche, perché il ciclo dell'acqua parte dalle foreste, influenzando quindi le precipitazioni e mantenendo l'umidità atmosferica, e anche per la stabilità dei bacini idrografici e per la fornitura di acqua dolce a milioni di persone. Infine, c'è la questione della cultura e del sostentamento delle popolazioni indigene che vivono nelle foreste pluviali e dipendono da esse per il loro sostentamento, per la loro cultura, per la loro identità. Queste comunità, tra l'altro, hanno sviluppato una vasta conoscenza delle risorse forestali e delle pratiche sostenibili di utilizzo della terra. Ma andiamo a vedere quali sono i rischi che stanno correndo le foreste pluviali. Il primo di tutti, naturalmente, si chiama deforestazione, dovuta ad agricoltura intensiva, allevamento di bestiame, estrazione mineraria e urbanizzazione. Questi sono gli elementi che distruggono ogni anno vaste aree di foreste. Inoltre, ci sono gli incendi dolosi, il disboscamento illegale. E questo non solo riduce la biodiversità, ma accelera anche il cambiamento climatico, con conseguenze devastanti sulle comunità locali e sulle economie che dipendono da queste risorse. Che cosa possiamo fare? Dunque, questa giornata della foresta pluviale ha rappresentato l'occasione per considerare anche cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo. Ed ecco, ci sono alcune iniziative che effettivamente ciascuno può mettere in pratica da subito. La prima è modificare la propria dieta. Ebbene sì, noi lo diciamo da tanti anni, la prima cosa da fare sarebbe di eliminare carne bovina, soia e olio di palma, che sono tra i principali responsabili della deforestazione nel bacino amazzonico. La soia, naturalmente, non è quella che mangiamo, ma è un elemento soprattutto coltivato per dar da mangiare agli animali allevati. Fortunatamente possiamo ridurre il nostro impatto su queste industrie distruttive diminuendo la domanda di tali prodotti. Poi possiamo acquistare prodotti da fonti responsabili. In particolare è stato fatto notare che bisognerebbe sempre preferire gioielli fatti con oro riciclato, perché questo contrasta l'estrazione dell'oro che avviene in Amazzonia e che è una delle principali cause di deforestazione e inquinamento dei fiumi. Un altro consiglio è quello di evitare l'acquisto di legni minacciati come il mogano, il palissandro ed ebano quando si fanno ristrutturazioni nelle case o si producono parquet, mobili, preferendo invece sempre legni duri non tropicali. Anche scegliere prodotti di carta realizzati con materiali riciclati o certificati FSC può essere un ottimo modo per dare il proprio contributo alla causa. Infine, supportare le comunità indigene acquistando prodotti artigianali ed ecosolidali realizzati da loro. Anche questo è un modo significativo per proteggere le foreste pluviali. Ed è importante sapere da chi acquistare ed evitare di sostenere aziende che sfruttano culturalmente queste comunità. Per farlo è bene verificare le pratiche lavorative e la posizione delle aziende sui diritti dei popoli indigeni. Quindi commercio equo, solidale o servizi come 10,000 Villages, che vendono prodotti eticamente realizzati da comunità indigene a basso reddito in tutto il mondo. Eventualmente, se proprio non potete fare a meno di fare turismo, fate ecoturismo e soprattutto quello organizzato dalle stesse comunità indigene. Poi possiamo ridurre l'emissione di carbonio. E questo come si può fare? Naturalmente si può fare usando di meno l'auto, regolando il termostato dei termosifoni e della caldaia, evitare il fast fashion, scegliere quindi abiti di qualità e duraturi oppure comprare usato, ridurre i viaggi aerei, fare quindi bene al pianeta usando mezzi pubblici evitando i mezzi privati, promuovere l'informazione, informare noi stessi e gli altri sull'importanza vitale delle foreste pluviali e sui pericoli che le minacciano, ed è quello che cerchiamo di fare anche noi nel nostro piccolo con la nostra trasmissione. Consegnate in Senato decine di migliaia di firme raccolte tramite la piattaforma Io Scelgo e con il supporto del Fatto Quotidiano per dire no alla cosiddetta legge Sparatutto. Gli occhi sono puntati sulla Commissione Permanente Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato, che sta discutendo una legge di conversione tramite decreto con pericolosi emendamenti in ambito venatorio, che riguardano anche la direttiva europea Uccelli. Si sta in sostanza revisionando la legge sulla caccia con liberalizzazioni in contrasto con le direttive comunitarie e con il dettato costituzionale. Gli emendamenti che sono stati proposti vanno a soddisfare gli appetiti delle associazioni venatorie che premono da anni per avere sempre meno lacci e lacciuoli e poter sparare a tutte le specie durante tutto l'anno. Ormai non c'è più alcuna differenza tra quelle che sono le richieste dei cacciatori e le azioni di governo, ha affermato Dante Caserta, responsabile affari legali e costituzionali del WWF Italia, nel giorno in cui diverse associazioni ambientaliste, tra cui WWF Italia, LAC, LAV, Legambiente, Rete dei Santuari e molte altre, hanno completato la raccolta firme per opporsi a questo golpe ecologico. Questo governo vuole togliere il silenzio venatorio il martedì e il venerdì, impedire i ricorsi contro i calendari venatori illegittimi, permettere di sparare agli uccelli in migrazione sui valichi montani, sottrarre i richiami vivi dalla tutela della legge, considerandoli animali domestici, quindi chiunque potrà tenere uccelli migratori come i tordi che fanno centinaia di chilometri e rinchiuderli in una gabbia a vita. Autorizzare laser e puntatori per la caccia notturna, togliere i divieti esistenti permettendo di sparare ovunque, anche nelle aree urbane e nelle riserve naturali. Tutti punti di una gravità inaudita che potrebbero costare anche caro all'Italia a livello di infrazione europea. In fatto di caccia il nostro paese non si smentisce, ma i cittadini italiani ed europei sono di tutt'altro avviso. Lo dimostrano le 65.000 firme raccolte attraverso una petizione popolare avviata dalla LIPU BirdLife Italia. Le associazioni animaliste e ambientaliste hanno consegnato al Senato le firme raccolte per dire no alla caccia, accompagnando questa azione con una lettera che è stata messa nelle mani di Ignazio La Russa con la richiesta di respingere gli emendamenti inseriti nell'ambito del decreto legge agricoltura. E adesso la decisione è tutta nelle sue mani. Della nostra trasmissione animalista, antispecista e vegan parliamo anche di cultura e di arte, presentando libri, film, poesie, installazioni e altri progetti artistici. A volte sono solo incursioni temporanee, ma alcune realtà ci sono particolarmente sorelle e le seguiamo da anni cercando di mantenere saldo il filo. Uno di questi, ad esempio, è Emilio Maggio, il nostro filmologo antispecista che non finisce di stupirci con le sue folgoranti recensioni cinematografiche. Un'altra realtà che sentiamo sorella sono i Troglodita Tribe, editori e autori sempre originalissimi nella forma e nei contenuti. In questa puntata vi regaliamo un'altra delle loro piccole grandi perle, un appello antispecista agli artisti. Appello antispecista a chi fa arte. Vorremmo sostenere con forza un appello affinché l'arte venga osservata e considerata come una forma di impegno sociale e solidale. Perché la ricerca di bellezza, perché l'espressione di temi universali, perché il tentativo di trascendere il nostro sguardo inesorabilmente costretto alla materia non può più ignorare l'orrore dell'ingiustizia, il dominio della gerarchia che opprime il mondo animale e, nello stesso tempo, ci rende complici. E non si tratta certamente di moralizzare la libertà creativa, di rendere ideologico ciò che invece dovrebbe nuotare in altre direzioni. L'impegno e la consapevolezza di un'arte sempre più responsabile sono un'altra cosa, sono approfondimento, capacità di penetrazione nel rassegnato fluire di modelli e categorie di potere che diamo per scontate, sono il desiderio di influire, di influenzare uno spettacolo che pare muoversi da solo senza più tenere in considerazione l'oppressione animale. Arte che si fa lotta e che resiste, arte che resta utopia, ma che concretizza salti frontali ai luoghi comuni del grattacielo per disegnare proprio quel panorama che ancora non conosciamo, che politicamente non possiamo ancora descrivere o progettare. Un'arte quindi che resta visionaria, che resta serenamente aperta a quel fare mondi che da sempre la contraddistingue. E non è forse questa la bellezza, l'espressione suprema del nostro essere animali umani? Se sottraiamo all'arte la sua capacità di combattere l'ingiustizia e l'orrore del mondo, se disertiamo la sua capacità di spezzare le catene della gerarchia e del dominio attraverso le visioni, le ispirazioni, le folgorazioni, le faremo un torto imperdonabile. Chi possiede l'estro, chi sceglie di muoversi nell'intrigante e meraviglioso percorso dell'arte in tutte le sue infinite sfaccettature, è avvertito. Chiesto al tosco vegan chef Gabriele Palloni di proporre oggi una ricetta speciale dedicandola alla lince, animale raro e prezioso. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Dalle parti di Tarvisio, dove si aggira la neomamma Talia, potrete imbattervi in questa gustosa zuppa di funghi di origine slava ma entrata nella tradizione locale. Anche se è un piatto più adatto all'autunno, può essere apprezzato anche nei mesi più caldi, magari servendolo a temperatura ambiente. Gli ingredienti per 4 persone per la zuppa di funghi in ciotola di pane sono 500 g di funghi, preferibilmente porcini, 4 panini tondi abbastanza grandi, 120 ml di yogurt di soia al naturale, 50 ml di olio di semi di girasole, una cipolla, 2 spicchi di aglio, un cucchiaio di farina, 1 litro di brodo vegetale, del prezzemolo, maggiorana, semi di cumino, paprika dolce, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Pulite e affettate i funghi. A parte, affettate la cipolla e fatela scottare in poca acqua e quando questa si sarà ritirata, aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e l'aglio tritato finemente. Fate rosolare qualche minuto e unite la maggiorana, il cumino e la paprika. Quindi aggiungete i funghi e lasciate cuocere, dovranno risultare morbidi ma non sfatti. A fine cottura aggiungete il cucchiaio di farina e dopo qualche minuto il brodo vegetale. Lasciate addensare e unite il prezzemolo tritato finemente. A parte emulsionate lo yogurt di soia con l'olio di semi di girasole e se gradite un sapore ancora più acido aggiungete qualche goccia di succo di limone. Servite la zuppa all'interno di panini tondi e svuotati accompagnando con la panna acida di yogurt di soia. Gabriele Palloni, autore di alcuni libri di cucina, l'ultimo edito da Newton Compton, si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. È tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da